decidi che riparti di qui. Sappi che le sberle non si fanno aspettare. Io non so che farò, senza lei non vivrò. Ma che sciocchi quella sberla nera bionda, ma sì! Che sberla! Che vaga! Chiedo solamente di mirarla. Che sberla! Che paga, che sberla, chi lo sa se puedo rivederla.